Opposti. Principio divino. L'universo materiale si regge tramite opposti, o contrari. Vi sono la luce e le tenebre, il caldo e il freddo, l'amaro e il dolce, il moto e la quiete, il rumore e il silenzio, l'alto e il basso. Anche nel campo spirituale vi sono gli opposti. Anzi, senza opposti non vi può essere verità ed equilibrio. Vi sono la vita e la morte, la benedizione e la maledizione, la verità e l'errore, l'amore e l'odio. Una condanna eterna e una salvezza eterna, il bene e il male, il paradiso e l'inferno. In definitiva, a una verità ne corrisponde un'altra contraria. Vi è sempre, come si dice, il rovescio della medaglia. Gli opposti sono diversi, ma complementari, e per questo sono indispensabili. Inoltre, essi coesistono in simbiosi. Il caldo, per essere tale, deve contenere un parte di una temperatura più bassa, altrimenti, allo stato puro sarebbe l'annientamento di tutto. Il basso, per essere tale, deve rapportarsi ad una altitudine, diversamente non si potrebbe parlare di basso. Così la vita coabita con la morte. Mentre stiamo vivendo, ogni giorno moriamo in attesa che la morte abbia il sopravvento. Sono gli opposti che rendono piacevole la vita e danno pure un senso alla nostra esistenza. Anzi, il piacere non esisterebbe senza contrasti. Si ama il caldo quando è freddo. Si cerca il sole quando piove. Si gode bevendo perché è sete. Si cerca Dio perché si è insoddisfatti. Un governo è democratico se è formato da forze politiche opposte. Quando l'Eterno creò l'uomo, gli disse secondo una versione: «Io farò un contrario a te». Se la donna non fosse un essere in contrario al maschio, essa non sarebbe l'aiuto convenevole. Alla domanda «Cosa ti piace in una donna?», qualcuno rispose: «Perché non è un uomo, ma è l'opposto». L'opposto e il contrario devono quindi essere accettati non solo come facenti parte della nostra vita, ma essi costituiscono la nostra esistenza. Eraclito disse: «La malattia fa dolce la salute, il male rende piacevole il bene, il riposo rende indispensabile il moto». Come si gode la salute quando si è stati gravemente infermi? Come si gode il letto quando si è stanchi? Nel suo libro Il nascondiglio, Corey Ten Boom narra che dopo aver vissuto per anni in modo disumano come prigioniera in un campo di sterminio, viene liberata e condotta a riposarsi in un letto con delle lenzuola pulite. La soddisfazione e la gioia provate in contrasto con la desolazione del campo di sterminio erano tali che la donna non voleva più dormire per non perdere il piacere di quello che godeva. Benché gli opposti costituiscano l'esistenza umana, essi sono anche ragione di smarrimento e di confusione, perché impediscono spesso di possedere quelle certezze di cui l'uomo ha bisogno. In merito a Dio, l'uomo vorrebbe metterlo in una provetta e poterne dare una definizione definitiva. Ma quando l'uomo pensa di essere arrivato a comprenderlo, egli sfugge alla sua comprensione. Come l'olio per chi lo vuole afferrare con le mani. Il Dio della Bibbia è un Dio che si rivela, eppure anche si nasconde. È un Dio di amore, ma non perdona il colpevole. Dio ha tutto, ma si rallegra per un'anima che si salva. È autosufficiente, eppure soffre e piange. Geremia 13 e 17. Il Dio delle Scritture è un santuario, ma anche una pietra di inciampo. Isaia 8 e 14. Come Gesù, che è la pietra eletta, ma anche una roccia di intoppo, 1 Pietro 2, 6 a 7. Dio chiama il peccatore, ma gli può anche indurire il cuore. Egli cambia in deserto il lago e la terra arida in sorgenti d'acqua, Salmo 107, 33. Questi opposti a volte confondono il credente, che tende a avere di Dio un'immagine somigliante a una fotografia. Ma Dio è una persona. Non è come una fotografia messa in cornice. Una fotografia o un ritratto resta sempre quello, non cambia mai nel corso dei secoli, mentre il Dio delle Scritture, anche se non è un uomo perché possa pentirsi, Numeri 23, 19, a causa del comportamento dell'uomo può arrivare anche a pentirsi, cioè a cambiare idea, Genesi 6, 6, Allo stesso modo, essendo un Dio di amore, Geremia 31:3, arriva anche ad essere il nemico di coloro che ama. Levitico 26:2-0. Anche la vita di Gesù è stata piena di opposti, opposti che costituivano la completezza del suo essere. Nel paese dei Gadareni Gesù incontra un indemoniato che guarisce con l'autorità della sua parola. In seguito, quando sale sulla barca per andarsene in un altro luogo, il matto gli chiede di poter rimanere con lui, ma Gesù gli rispose di fare il missionario a casa sua e di raccontare ai suoi familiari le grandi cose che Dio aveva operato in lui. Luca 8:39. Anche ai suoi discepoli Gesù diede l'ordine di predicare il Vangelo a chiunque. Eppure a volte ha vietato alle persone di raccontare le opere potenti di Dio, come nel caso della figlia di Jairo, un capo della sinagoga, Luca 8:56, e un sordo che parlava a stento al quale aprì gli orecchi e che fece parlare distintamente. Proprio in questa occasione, leggiamo nel Vangelo di Marco, e Gesù ordinò loro di non dirlo a nessuno, ma quanto più lo vietava loro, tanto più essi lo divulgavano. Marco 7:36. Le persone che avevano assistito al miracolo non erano forse autorizzate a divulgare le opere di Gesù, per onorarlo e dargli gloria? Eppure vi era un momento durante il quale era opportuno tacere. Nessuna contraddizione. Solo opposti. Proprio perché la vita è contraddistinta da opposti, il libro dell'Ecclesiaste ricorda questa alternanza dell'esistenza umana che accompagna ogni essere umano e che è bene tenere sempre presente per avere un comportamento equilibrato. Per tutto ci è il suo tempo, ci è il suo momento per ogni cosa. Sotto il cielo, un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per far cordoglio e un tempo per ridere, un tempo per gettar via pietre e un tempo per raccoglierle, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire. Questo aspetto della vita deve indurci ad accettare che nulla è stabile, sia nelle cose terrene che negli affetti. Spesso si vive per ottenere una posizione economica e non si è pronti ad accettare che questa possa cambiare. Si vive per ottenere un successo e non si è disposti a perderlo. Si conquista un affetto importante ma non si è preparati a perderlo. Eppure, per la sua intrinseca natura, in questo mondo nulla è stabile, nulla è duraturo. La vita si regge per contrasti. Non si può sempre piantare, occorre anche sradicare. Non si può sempre avere un atteggiamento positivo nei confronti del prossimo, perché, come fa Dio, a volte occorre essere contrari. Non è possibile sempre cucire situazioni, perché a volte è necessario strapparle. Così, in una situazione matrimoniale che è l'emblema della convivenza, non è possibile abbracciarsi sempre, essere sempre d'accordo, ma si devono accettare anche quei momenti di guerra affettiva. È incredibile come nel matrimonio si possano toccare vette di trasporto e valli di indifferenza. Ma questi sono i contrasti della vita che, se non vengono accettati, portano i coniugi al divorzio. La vita è come andare in bicicletta o guidare la macchina. Si può procedere solo con dei continui spostamenti opposti, meno destra e sinistra. Ciò che sembra un contrasto spesso è una medesima affermazione fatta in due modi diversi. Ah, lo so, il caso di ciò che troviamo scritto nel libro dei Proverbi. Non rispondere allo stolto secondo la sua follia, perché tu non gli debba somigliare. Rispondi allo stolto secondo la sua follia, perché non abbia ad apparire saggio ai propri occhi. Proverbi 26. Il contrasto di questi due proverbi è evidente, ma ci sono occasioni nelle quali occorre parlare in modo insensato come lo stolto e altre volte no. Sono due verità estreme, ma come disse qualcuno, la verità non è in mezzo o a una estremità, ma le due estremità insieme. Charles Simeon. Siamo noi che abbiamo creato i centauri, cioè un essere mezzo uomo e mezza bestia. Siamo noi che abbiamo creato le sirene, cioè esseri mezzo pesce e mezza donna. Siamo noi che abbiamo creato il vestito unisex, cioè il vestito che va bene sia agli uomini sia alle donne. Siamo noi che abbiamo creato il mapo, cioè un frutto che è un incrocio con arancio e un pompelmo. Siamo noi che abbiamo creato il purgatorio, cioè un luogo che non è né l'inferno e neppure il paradiso. La verità invece è una, sia che si trovi ad un estremo o ad un altro, come nel caso di colui che è nato di nuovo. Egli è il contrasto per eccellenza. L'Apostolo Paolo scrisse alle chiese della Galazia: «Io dico camminate secondo lo Spirito, e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste». Galati 5, 16-17. Chi ha posto fede in Cristo realizza istinti opposti. Ogni giorno, egli prova impulsi divini e malvagi, e per questo non è libero di fare quello che vuole. Il contrasto è il principio dell'equilibrio. Se il credente avesse solo impulsi malvagi non farebbe il bene. Se avesse solo impulsi dello spirito non sarebbe ancora un peccatore. Così con due tensioni opposte chi teme Dio è chiamato in ogni istante a scegliere a quale impulso sottomettersi. Deve accettare di amare Dio e nello stesso tempo deve accettare anche di sentire l'impulso di amare il mondo. Egli odia il peccato e nello stesso tempo è attirato verso di esso. Questi opposti producono l'equilibrio di Dio. I nostri impulsi malvagi non sono peccato come non sono virtù i nostri buoni desideri. Il peccato o la virtù diventano tali solo quando si mettono in pratica. Il contrasto esiste in Dio ed è proiettato in tutto il creato, quindi tutto quello che Cristo ha creato, il mondo e gli uomini, rispecchiano questo suo carattere. Chi non accetta questi opposti è destinato ad alterare la verità. Una sola verità portata avanti senza il suo opposto è dannosa quanto l'errore. Anzi, non è verità. Accettiamo i contrasti, conviviamo con i contrasti e realizzeremo quell'equilibrio che regge ogni cosa, visibile e invisibile. Febbraio 2006. Ellero.